Focus Economia. Le 17, 8 minuti e 32 secondi. Buonasera gentili ascoltatori da Simone Spezia e benvenuti a questa nuova puntata di Focus Economia. Di cosa parleremo oggi? Beh, ve l'abbiamo già accennato all'interno del giornale radio. Riascolteremo alcuni dei passaggi più significativi della conferenza stampa del Presidente del Consiglio, Mario Monti, che a dir la verità non si è poi addentrato così tanto nei provvedimenti che verranno presi nel prossimo futuro. Ha dato delle indicazioni abbastanza generiche e ha dettato anche un'agenda con un'idea di far le prime cose entro il 23 di gennaio. Comunque ve lo faremo risentire, ve ne faremo risentire qualche brano per darvi un'idea di quello che è successo oggi nella conferenza stampa di fine anno. Naturalmente parleremo di borsa. La giornata, come si diceva, è positiva sui mercati, con un più 0,62% sul FTSE MIB e uno 0,6% di guadagno sul FTSE All Share. Meglio fanno le altre piazze finanziarie europee, euro che è ancora in discesa rispetto a ieri a 1,29,10, e parleremo naturalmente dell'asta dei titoli di Stato di oggi. Cercheremo anche di fare il punto su questa due giorni, quella di ieri che abbiamo ampiamente commentato, sui titoli di Stato a sei mesi, particolarmente positiva, e oggi segnali piuttosto contrastanti, perché se dal lato dei rendimenti c'è stato un calo, anche se non così forte per quanto riguarda i decennali, invece c'è stato qualche problema dal lato delle richieste, e vedremo di andare più a fondo su questa questione. Innanzitutto, come sempre, le notizie in breve. Iniziamo come sempre dal petrolio. Oggi una seduta che ha aperto in rialzo a New York a $99,7 al barile. E da segnalare invece in casa nostra la benzina, che ha toccato un record a 1,722 euro al litro. Il monitoraggio di Quotidiano Energia ha toccato appunto il record negli impianti ENI. Secondo i calcoli invece della CGA di Mestre, le tariffe per i servizi pubblici a partire dal 2000, quindi negli ultimi 11 anni, sono cresciute del 70% per l'acqua potabile e del 61% per i rifiuti, a fronte di un'inflazione cresciuta del 27,1%. Un segnale positivo: vi parlavamo ieri della questione dei depositi overnight delle banche dell'Eurozona presso la Banca Centrale Europea, che sono quei depositi, una sorta di parcheggio della liquidità da parte delle banche. Ieri gli istituti, a quanto si è appreso, hanno per così dire parcheggiato 437 miliardi di euro nell'istituto centrale, rispetto ai 452 del giorno prima, che comunque era un massimo storico. Un segnale positivo, lo prendiamo e vediamo il dato così com'è. L'asta dei titoli di Stato, si diceva, in calo il rendimento del BTP a 10 anni. Tasso sceso al 6,98% dal 7,56% dell'ultima asta. E il Tesoro ha venduto tutti 2 miliardi e mezzo di BTP. Per i triennali il tasso è sceso al 5,62% dal 7,89% della precedente asta. E come si diceva, il segnale non particolarmente positivo arriva dal lato delle richieste, insomma di quanti ne sono stati collocati. Ne sono stati collocati 7 miliardi in una forchetta che andava da un minimo di 5 a un massimo di 8 miliardi e mezzo. Ne parleremo più avanti. Abbiamo altri dati che arrivano dalla fiducia delle imprese, ancora in calo a dicembre, segnala l'Istat, da 84,8 a 80,4. E anche la fiducia nel commercio al dettaglio, scesa ad 81,8 in dicembre, al livello più basso dal 2003, che è l'inizio dell'attuale serie storica. L'Istat diffonde anche dei dati, ve li forniamo anche se non sono particolarmente aggiornati perché riguardano il 2010. Il 18,2% dei residenti in Italia è, secondo la definizione Eurostat, a rischio di povertà. Il 6,9% si trova in condizioni di grave deprivazione materiale e il 10,2% vive in famiglie caratterizzate da una bassa intensità di lavoro. L'indicatore sintetico del rischio di povertà e di esclusione sociale è al 24,5%. Secondo l'Istat, il 16% degli italiani arriva con difficoltà a fine mese, dato 2010. E ora veniamo a qualche notizia curiosa su questa crisi. Ma cos'è questa crisi? Ma cos'è questa crisi? Chi ce l'ha li metta fuori circolare, miei signori? E chissà che la crisi finirà. Ma cos'è questa crisi? Ma cos'è questa crisi? Chi ce l'ha li metta fuori circolare, miei signori? E chissà che la crisi finirà. La produzione dei rifiuti in Italia è un dato riferito oggi da Daniele Fortini, presidente di Federambiente. All'ANSA dice: ha subito un tonfo sia nel periodo natalizio che nell'intero 2011, anno nel quale è scesa tra il 4 e il 4,5% su base annua. È un effetto appunto del calo dei consumi legato alla crisi economica. Ma cos'è questa crisi? Ma cos'è questa crisi? Chi ce l'ha li metta fuori circolare, miei signori? E chissà che la crisi finirà. Notizia che arriva da Milano. Nel bilancio 2011, sulle denunce presentate alla polizia nel solo territorio cittadino, la crisi economica inizia ad influire anche sulla sicurezza dei cittadini. E dopo anni di decremento dei reati, nel 2011 le statistiche indicano una crescita complessiva del 5,58% rispetto a quelli denunciati nel 2010. La spinta arriva in particolare dalle rapine, più 6,46%, i furti, più 12,3%, e che aumentano in strada, più 13%, in casa, più 14,4% e a bordo delle auto in sosta, più 20% quasi. Ma cos'è questa crisi? Ma cos'è questa crisi? Chi ce l'ha li metta fuori circolare, miei signori? E chissà che la crisi finirà. E questa invece arriva fonte Il Fatto Quotidiano. Allora, riguardano le spese dell'Agenzia del Territorio. Poco meno di 1,5 milioni di spese per comunicazione istituzionale e rappresentanza. L'agenzia spende in rinfreschi, pranzi, convegni e mostre il doppio del costo delle bollette telefoniche delle sue 100 sedi. Il buon esempio viene dall'alto: nonostante guadagni 300.000 euro lordi all'anno, dice Il Fatto Quotidiano, questo è quello che scrive, il direttore dell'agenzia Gabriella Alemanno ha speso migliaia di euro in pranzi e cene di rappresentanza pagati con la sua carta di credito aziendale, pagando anche una cena a Cortina. Sono passate le spese di rappresentanza da 80.000 euro a 1 milione nel 2010 per sfiorare 1,5 milioni nel 2011. Ad esempio, sfugge, scrive Il Fatto, perché l'agenzia compri 30 uova di struzzo decorate per 3.240 euro dalla gioielleria Peroso. Sono state donate a rappresentanti di stati esteri per esigenze di rappresentanza, spiega il responsabile comunicazione dell'agenzia Mario Occhi. Tra l'altro, la domanda sulle uova di struzzo è entrata anche nella conferenza stampa del Presidente del Consiglio. Sono molto interessato a questa cosa delle uova di struzzo decorate, sulle quali si porrà la mia attenzione, anche perché anche perché e credo che l'aspetto della decorazione non sia neanche sostanziale, ma il concetto di uovo di struzzo che mi preoccupa, anche perché la politica dello struzzo non è esattamente quella che intendiamo condurre e stiamo conducendo. Passiamo dagli struzzi alla parte un po' più seria della conferenza stampa del Presidente del Consiglio, dedicata naturalmente a tutti i temi che ci sono in ballo e che riguardano soprattutto la crescita. Tanto si è detto in queste ore, in queste settimane, insomma, è arrivata una manovra che ha un effetto recessivo. Lo ha ammesso tra l'altro lo stesso Presidente del Consiglio. Ci vogliono misure per la crescita, deve partire una fase 2 dell'esecutivo, si è letto e si è scritto. Bisogna dire che oggi Monti non è che poi sia entrato tanto nel dettaglio su quello che il governo ha intenzione di fare, ha detto che insomma si sta preparando un'agenda che inizierà già nei primi giorni, si partirà già nei primi giorni di gennaio, insomma, o almeno entro la fine di gennaio. Dice Monti, insomma, non c'è una fase 2 separata da una fase 1. Non c'è mai stata, almeno ai miei occhi, agli occhi dei miei colleghi nel governo, una fase 1 separata da una fase 2. Perché voi ricordate il nostro provvedimento, che poi è diventato il decreto legge del 6 dicembre, convertito adesso in legge, ha recato come intitolazione crescita, equità e consolidamento dei conti pubblici. Ebbene, questo terzetto di obiettivi è lo stesso nella fase detta spesso 1, che si è conclusa, e nella fase che voi amate spesso definire 2, nessun problema, che sta per aprirsi. Perché? Perché sono solo cambiate le concentrazioni di peso in questa miscela. Nella prima parte, con quel decreto legge, ci siamo indubbiamente occupati soprattutto di consolidamento dei conti pubblici, perché era questa l'assoluta priorità. Ma, come mi avete sentito dire quella sera, lo abbiamo fatto cercando di curare il più possibile l'equità sociale e guardando il più possibile al futuro, quindi alle esigenze della crescita. E vi assicuro che l'insieme di operazioni di politica economica e sociale su cui stiamo lavorando e di cui vorrei darvi le grandi linee oggi assume esattamente questo terzetto di obiettivi, con una enfasi un po' diversa che sottolineerà maggiormente la crescita. Ma l'esigenza del consolidamento dei conti pubblici e l'esigenza dell'equità saranno altrettanto presenti. Dice il Presidente del Consiglio ancora che non occorre una nuova manovra e che non esiste un consolidamento dei conti senza crescita. Nessuno pensi né che occorra un'altra manovra, nel senso classico della restrizione, né che, siccome è stata fatta una manovra così pesante e robusta, adesso la fase della crescita significhi larghezza finanziaria. No, la fase della crescita è in sintonia con l'esigenza di continuare il consolidamento dei conti pubblici. E in che modo è in sintonia? Non esiste consolidamento sostenibile dei conti pubblici se il famoso denominatore dei rapporti che osserviamo giorno e notte, disavanzo PIL, debito PIL, cioè il PIL, non cresce adeguatamente. Quindi serviamo l'esigenza del consolidamento anche in questa fase che si apre, che è intestata maggiormente alla crescita. Adesso proseguiremo con le altre dichiarazioni del Presidente del Consiglio, però intanto ci inseriamo questa. Ha detto Mario Monti che in preparazione per il 21 gennaio una visita a Tripoli, dice, la farò con diversi ministri per riattivare il trattato di amicizia con ampi contenuti, per ripristinare, intensificare, ammodernare le modalità di cooperazione. Perché ve la diamo adesso? Perché le agenzie hanno appena battuto che un funzionario del governo di Tripoli ha detto che la Libia modificherà i contratti petroliferi in essere con l'ENI. Ancora sull'agenda di governo e sulla riforma del mercato del lavoro. La politica di crescita che proporremo al Paese nelle prossime settimane è una politica di crescita che non fa molto uso di denaro pubblico, anche perché ce n'è poco di denaro pubblico, ma fa molto uso dell'equità come leva, cioè noi siamo convinti, i miei colleghi e io stiamo lavorando su questo, che l'operazione volta a liberare energie, liberalizzazione, concorrenza, a stimolare il capitale umano attraverso la università e la ricerca, la stessa riforma impegnativa, delicata, essenziale nel mercato del lavoro, hanno sì una finalità di crescita, ma anche hanno una finalità forte di equità. Basta pensare che la politica per le liberalizzazioni e per la concorrenza, che cosa significa? Limare i privilegi e le rendite, non dico questo con alcuna connotazione spregiativa, sono fatti della realtà e non mi riferisco a nessuna particolare categoria, ma a tutte, che frenano i meccanismi economici, soprattutto a danno dei giovani. Quindi volevo chiarire che non vedo una fase 1 e una fase 2, se non una successione di calendari. Proprio sul tema della riforma del mercato del lavoro, dice Monti, il negoziato con le parti sociali ci sarà naturalmente, molto più forte che per quello che c'è stato per la riforma delle pensioni, e però ci vuole anche rapidità. Il cantiere delicato e importante del lavoro e degli ammortizzatori sociali. Negli ultimi anni l'Italia ha realizzato dei progressi nella organizzazione e nelle normative relative al mercato del lavoro. Sappiamo d'altra parte, e ci viene fatto osservare dalla Commissione europea e dagli enti internazionali, che ci sono ancora eccessive segmentazioni nel mercato del lavoro e che in particolare queste nuociono ai giovani, e quindi il nostro governo, in dialogo, in negoziato con le parti sociali, la materia del lavoro, abbiamo sempre detto, richiede più negoziato che la materia pensionistica, ma tutto però dovrà essere condotto con una certa rapidità, farà delle proposte per quanto riguarda l'ammodernamento degli ammortizzatori sociali, perché le tutele ci siano per certi aspetti rafforzate, ma in una prospettiva di maggiore flessibilità dell'economia, e che alcuni istituti del mercato del lavoro vengano riformati per favorire il lavoro non precario per i giovani. E arriva adesso la risposta della CGIL, che si dice pronta ad un confronto serio col governo che riguardi l'insieme dei provvedimenti sulla crescita, però un confronto non condizionato dalla fretta, dice la CGIL. Al centro ci devono essere la lotta alla precarietà, provvedimenti per favorire l'occupazione giovanile e femminile, la riforma degli ammortizzatori sociali. Ma se si vuole far crescere il paese, dice ancora il sindacato, il primo provvedimento da prendere dovrà essere quello di ridurre il carico fiscale per i lavoratori dipendenti. Dice ancora Mario Monti, non è questo governo che ha sottoscritto l'obiettivo del pareggio di bilancio nel 2013, non prendo posizione né favorevole né critica, ma faccio presente che sono impegni di altri. E poi dice ancora, fino ad oggi ci sono stati gli atti dovuti, da oggi gli atti dovuti, da oggi gli atti voluti. Stiamo dando puntuale, tempestiva e credibile attuazione a impegni che l'Italia aveva già preso e che non vogliamo né possiamo discutere nel merito. Sarebbe stato rovinoso per l'Italia, mantenendo quei forti dubbi di credibilità che la caratterizzavano fino a quel momento, non passare ad una fase di rigorosa e tempestiva attuazione. Era un atto dovuto. L'atto voluto del mio governo comincia oggi. Quello era un atto dovuto. Era un atto dovuto, ma non era dovuto il modo in cui dovevamo realizzare quegli obiettivi. E negli spazi modesti di discrezionalità riguardanti il modo, abbiamo cercato di farlo per l'appunto in modo strutturalmente equo. Ci scrivete tra le altre cose, poi sentiremo qualcos'altro più avanti, e ci scrivete che il Presidente del Consiglio non ha risposto ad alcune domande, ad esempio sulla gestione dei giochi. Bisogna dire la verità, è vero che qualche domanda Monti l'ha dribblata. Comunque ci fermiamo un attimo, ci prendiamo una pausa e poi sentiremo qualcos'altro, in particolare sull'andamento dello spread e sulle aste dei titoli di Stato, tema sul quale poi torneremo più avanti, e lo sentiremo anche sul tema patrimoniale. Trentaquattro minuti. Di nuovo buonasera da Simone Spezia, 349-238-6666 per i vostri sms, nei quali in questo momento mettete l'accento sul fatto che Monti sia stato piuttosto elusivo dal lato dei costi della politica. Allora, veniamo a quello che probabilmente lo stesso Presidente del Consiglio spera che sia il titolo di domani dei giornali, ossia il nome a questa nuova fase, che lui stesso in realtà ha detto che non è una fase 2 sganciata dalla fase 1, va bene, comunque è Cresci Italia, e poi si parla anche di lotta all'evasione. Nel pacchetto cosiddetto Salva Italia, e ciò di cui parliamo da oggi, non avrei obiezioni se decideste di chiamarlo Cresci Italia. Nel pacchetto Salva Italia abbiamo dato una spinta fiscale alla capitalizzazione delle imprese attraverso l'ACE, una forte defiscalizzazione della componente lavoro attraverso la detrazione IRAP e l'incentivo alle nuove assunzioni di giovani più forte al Sud, un'azione anti-evasione attraverso la trasmissione di tutti i movimenti bancari all'Agenzia delle Entrate e la riduzione dell'uso del contante, che ha anche un forte impatto a favore della lotta alla criminalità e all'illegalità. E non si può volere una seria lotta all'evasione, e vi assicuro che le forze, le agenzie e gli uomini di valore che in Italia sono incaricati di lottare quotidianamente contro l'evasione ci hanno dato attestato del fatto che abbiamo messo a loro disposizione con questo decreto legge strumenti per il contrasto quotidiano all'evasione che mai avevano avuto a disposizione. E cosa c'è di più strutturale in una manovra finanziaria che il conferimento di poteri con tanti vincoli per rispettare i diritti individuali e le libertà individuali, ovviamente, ma il conferimento di poteri per fare la lotta all'evasione? Ci chiedete della patrimoniale, così si è espresso il Presidente del Consiglio. Come avete sicuramente osservato, che senza sbandierare, anche perché sarebbe una bandiera più gradita agli uni e più sgradita agli altri, e noi cerchiamo di lavorare per tutti, dispiacendo un po' a ciascuno, senza sbandierare la la tassazione patrimoniale, abbiamo realisticamente e pragmaticamente operato per alleviare l'onere fiscale su chi produce, sia lavoratore sia impresa, spostandone una parte su chi detiene attività finanziarie o reali. Sui tempi, così il Presidente del Consiglio. Il nostro Paese si propone, attraverso un grande sforzo condiviso, concentrato nelle prossime settimane e poi nei prossimi mesi, ci proponiamo di favorire la crescita e il recupero di competitività. Forse le diverse linee di azione, perché non ho nessuna specifica misura da annunciarvi oggi, ovviamente, quelle sono tutte in lavorazione e nessuna vi annuncio, ma vorrei annunciarvi la logica con la quale ci muoviamo e i tempi. Ebbene, i tempi saranno ancora una volta piuttosto veloci, non ci è dato di lavorare con calma, quindi noi sappiamo che l'Europa ci attende con ulteriori provvedimenti adottati e altri calendarizzati sul piano della crescita al Eurogruppo del 23 gennaio e successivamente al Consiglio europeo del 30 gennaio. Ci suggerite una battuta non male, che la fase 1 non è stata Salva Italia ma Equitalia. Carina. E ancora dite, scommetto che ai primi veri tagli che fa le liberalizzazioni, se le fa, viene impallinato. Vedremo che cosa succederà. Intanto ci sentiamo, dopo aver detto il Presidente del Consiglio che insomma lo spread non va sovrastimato, non va demonizzato, come dire, questa misura, né quando va bene né quando va male, quindi non va sovrastimato, ha parlato delle aste di titoli di Stato di oggi. Ieri e oggi aste di emissione dei buoni del tesoro sono andate piuttosto bene, questo è incoraggiante, ma non consideriamo assolutamente terminate le turbolenze finanziarie, c'è ancora molto lavoro da fare, ma se non altro possiamo dire che questo lavoro da questo punto in poi è soprattutto da fare in Europa e quindi qui scatta anche il ruolo che l'Italia può avere in Europa, sul quale come ho detto ripetutamente al Parlamento siamo molto impegnati anche per quanto riguarda il negoziato in corso in queste ore proprio e poi proseguirà nelle prossime settimane sul cosiddetto accordo internazionale per l'ulteriore disciplina finanziaria fiscale, quello voluto in particolare dalla Germania e da altri paesi nel Consiglio europeo dell'8 e 9 dicembre. E ancora il Presidente del Consiglio su quello che avverrà nel futuro dal lato dei provvedimenti, dice di non escludere niente a partire da interventi sullo stock del debito, come sapete era circolata nei giorni scorsi la voce della possibilità della creazione di un fondo per la gestione del patrimonio dello Stato, di fondi immobiliari per la gestione del patrimonio dello Stato. Ha parlato della tassazione sulla casa, ha detto, devo dire, nel nuovo sistema in realtà è più equo, il numero delle case esenti è di 6 milioni. E comunque i cittadini capiscono i sacrifici per un'Italia più degna. Non siamo vicini alla Grecia, ma ci stavamo andando e non fare la manovra avrebbe fatto scoppiare il sistema. Infine sull'Europa ancora, molti avvoltoi nel cielo europeo, ma non ci mangeranno. Questo il quadro, dalle parole di Monti è il momento della borsa. Livia Zancaner, Radio Core, il Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera. Finalmente una giornata positiva, più 0,76% il FTSE MIB, più 0,70% il FTSE All Share, c'è qualche motivo particolare? Sì, allora, a sostenere i listini sono stati in particolare l'andamento positivo di Wall Street, dove ora il Dow Jones segna un rialzo dello 0,77% e alcuni dati americani superiori alle attese. Anche Milano quindi ha chiuso in territorio positivo con un rialzo dello 0,7%, Milano dove per tutta la giornata ha prevalso invece una sorta di cautela, soprattutto dopo l'asta dei titoli di Stato. Vi è infatti ancora una certa pressione sull'euro e sui titoli di Stato italiani. In particolare nel corso della giornata Milano è stata penalizzata soprattutto dall'andamento debole delle banche e degli industriali, con Fiat ancora in deciso calo. Banche, appunto, andamento delle banche che dipende in questo periodo molto spesso dall'andamento dei titoli di Stato. Ti chiederei, prima ancora, Livia, di parlare dei singoli titoli, un accenno proprio sull'euro. Sì, allora l'euro in questo momento tratta intorno a quota 1,29 nei confronti del dollaro, mentre questa mattina era scivolato fino a 1,28 nei confronti sempre del biglietto verde, per poi risalire, ma ancora sotto la chiusura di ieri sera, a quota 1,2947. Ricordiamo che ieri inoltre l'euro aveva toccato i minimi da 10 anni sullo yen e continua quindi a essere comunque sotto pressione. Questo per quanto riguarda l'euro. Veniamo ai singoli titoli. Ci dicevi giù i bancari, in particolare la Popolare Emilia Romagna, meno 2,62%, non una performance esaltante negli ultimi mesi, nelle ultime settimane. No, assolutamente, bisogna ricordare che la Popolare dell'Emilia Romagna dall'ingresso nel FTSE MIB lo scorso 19 settembre ha registrato un calo del 34% circa. Oggi vi è da segnalare un andamento particolare, nel senso che la controllata Banco di Sardegna, sono quotate le risparmio, ha chiuso in rialzo del 15,7% circa, più che raddoppiando il valore dai minimi di fine novembre. Secondo gli operatori, gli acquisti compiuti proprio dalla Popolare dell'Emilia Romagna alla fine dello scorso mese sulla controllata hanno riacceso l'interesse sul titolo, quindi del Banco di Sardegna. Sono tornate le solite voci che tornano in determinati mesi, in determinate sedute, secondo cui la Popolare dell'Emilia Romagna potrebbe andare avanti ad acquistare le quote non ancora detenute nel banco, come già realizzato per le altre controllate. Quindi oggi sul Banco di Sardegna sostanzialmente ha prevalso la speculazione. Allora, negative tra le altre banche anche Unicredit, giù dell'1,5%, male oggi anche Prismian, meno 1,31%, Fiat scende dello 0,91%, Lottomatica dello 0,6%. Adesso torneremo con te, Livia, subito dopo la viabilità. Diciassette e 46 minuti, brevemente negli altri titoli di giornata, a partire da Azimut, che è stato il migliore sul FTSE MIB, Livia. Sì, allora, ieri sono stati comunicati, diffusi i dati sul risparmio gestito di novembre, quindi sulla raccolta fondi. Il dato di sistema è stato negativo, nel senso che in novembre si è chiuso con deflussi per 8,5 miliardi di euro, ma Azimut ha mostrato invece una performance positiva per 121,7 milioni, in crescita quindi di 122 milioni, e quindi il titolo oggi in borsa ha beneficiato della notizia, guadagnando quasi il 2%. Teniamo costantemente monitorate in questi giorni, monitorata Fonsai. Che cosa è successo oggi? Sì, allora Fonsai ha perso il 2,8% circa, la controllata Milano Assicurazioni quasi il 5%. Allora oggi Fitch ha messo la compagnia in credit watch negativo, quindi sotto un outlook negativo, ma già in precedenza, quindi Standard & Poor's ha abbassato il rating di entrambe le compagnie, quindi sia Fonsai sia Milano Assicurazioni, a causa del deterioramento più forte del previsto della posizione finanziaria, alla luce soprattutto della perdita attesa per il 2011 a quota 925 milioni. Oggi era in calendario un nuovo consiglio di amministrazione di Fonsai, ma gli occhi del mercato restano puntati sull'operazione di aumento di capitale, in particolare sui possibili soci che potrebbero entrare nell'azionariato della società. Atlantia, infine, che in questi giorni si muove sulla scorta di indiscrezioni che riguardano ancora una volta i nostri soldi. infatti, allora Atlantia questa mattina viaggiava in territorio negativo, ha poi chiuso sopra la parità, quindi è più 0,24%, in attesa, come dicevi tu, di novità sull'aumento delle tariffe autostradali. Ieri dal Consiglio dei Ministri non sono arrivate ancora indicazioni precise. Secondo indiscrezioni, il governo starebbe lavorando ad un aumento dei pedaggi dell'1,8%. Secondo gli esperti, un incremento dell'1,8% corrisponderebbe a un impatto negativo sugli utili di Atlantia per azione del 4% circa. Bisogna ribadire però che secondo gli esperti un aumento dell'1,8% viene considerato un aumento minimo, nel senso che si aspettano di più. Infine, segnalazioni dai titoli minori? Sì, allora, per quanto riguarda i titoli migliori, il miglior titolo su listino è stato KR Energy, che ha annunciato l'acquisto del 50% di due società per complessivi 10 milioni di euro. Un altro titolo si è mosso per una notizia comunicata ieri, è De'Longhi, che ha ceduto il 3,6% circa. Da lunedì sarà effettivo lo scorporo della società con la quotazione in borsa della società del clima, e per effetto dell'operazione ogni azionista De'Longhi riceverà un'azione di De'Longhi Clima, quindi di del clima, che sarà quotata in borsa appunto dal 2 gennaio. Grazie a Livia Zancaneri di Radio Cori Sole 24 Ore e buonasera Livia. Grazie a voi, arrivederci. Noi diamo un quadro finale di giornata. Ci segnalate giustamente che abbiamo omesso gli indici delle altre piazze finanziarie europee: Francoforte su dell'1,34%, Parigi dell'1,84%, quindi molto meglio di Milano. Londra guadagna lo 0,86%, positiva anche l'America, 1,08% sul Dow Jones, 1,066% sul Nasdaq e 1,075% scusate sullo Standard & Poor's 500. Altri titoli, si diceva, bene XOR più 1,82%, Enel Green Power ed Enel su di 1,5%, così come Intesa San Paolo, Telecom Italia che guadagna l'1,4%, Buzzi Unicem l'1,37%, Ansaldo STS l'1,25%, l'1,21% tanto Tots quanto Tenaris, ST Microelectronics e Salvatore Ferragamo l'1,20%, così come Snam Rete Gas e Impregilo, Saipem poco più dell'1% e poco meno Generali ed Eni, Autogrill e Finmeccanica intorno allo 0,9% tutti quanti, Ubibanca più 0,71%, Terna più 0,62%, Mediaset mezzo punto percentuale di guadagno, Mediolanum lo 0,34%, Atlantia lo 0,24%, il Monte dei Paschi lo 0,16%, così come Fiat Industria lo 0,15%, poco sopra lo 0, Luxottica e Mediobanca in perfetto pareggio di Assorin, Pirelli giù dello 0,08%, A2A dello 0,13%, Campari dello 0,19%, la Popolare di Milano giù dello 0,30%, il Banco Popolare altrettanto, Parmalat dello 0,45%, l'Ottomatica dello 0,60% e gli altri. Ve li abbiamo dati, passiamo a parlare di questa due giorni di aste dei titoli di Stato. Ieri, come vi abbiamo ampiamente raccontato, l'asta per i titoli semestrali con un dimezzamento dei rendimenti al 3,25% contro il 6,5% dell'asta precedente. Oggi qualche segnale positivo è arrivato dal lato dei rendimenti, anche se non straordinario, soprattutto per i decennali, perché il rendimento è sceso al 6,98% dal 7,56% dell'ultima asta. Il tasso dei triennali, il rendimento dei triennali è sceso al 5,62 dal 7,89 dell'asta precedente. E però c'è una questione che riguarda quanti ne sono stati collocati. È una parte media della cosiddetta forchetta, perché la forchetta era tra 5 e 8 miliardi e mezzo, ne sono stati collocati 7 miliardi. Saluto Angelo Drusiani, responsabile gestione di Banca Albertini SITS, buonasera. Buonasera a voi. Le chiedo innanzitutto un primo giudizio su questi due giorni. Per quanto riguarda il rendimento delle aste, sia quelle di ieri sia quelle di oggi sono state collocate a rendimenti di mercato, quindi scese i rendimenti, molto quelle di ieri, un po' meno quelle di oggi rispetto alle aste precedenti, ma esattamente sui rendimenti che i mercati in quel momento pretendevano. Quindi sono risultati che gli operatori si attendevano, perché è chiaro che un'asta dei titoli di Stato viene collocata generalmente ai tassi in cui in quel momento i titoli vengono scambiati sul mercato, quindi da questo punto di vista nessuna sorpresa. Per quanto riguarda invece l'andamento dei rendimenti, c'è un piccolo miglioramento, però non bisogna dimenticare che a fronte di enormi richieste di titoli è chiaro che i rendimenti non possono scendere in questo momento. Già, perché poi questo 6,98% per i decennali non è che poi sia sto granché come calo dei rendimenti, a dir la verità, perché alla fine siamo sempre a ridosso di quella soglia critica del 7% della quale tanto si parla e si è parlato. Tenga conto che per quanto riguarda il rendimento che ottengono le banche, a cui viene retrocesso una commissione di 40 centesimi, il rendimento sale al 7,04, quindi siamo ancora sopra la soglia del 7%, e sale al 6,76 quello del BTP 2021, la riapertura, e al 5,70 quello del triennale, quindi siamo su rendimenti ancora abbastanza elevati. Quello che è altissimo è il rendimento del CCT, che è al 7,49 addirittura. È vero che è un rendimento teorico. E questo cosa significa questo, Drusiani? Significa che i CCT sono poco richiesti, nel senso che siamo in una fase in cui i rendimenti potrebbero scendere ancora, perché sono collegati al tasso Euribor semestrale, per il quale potrebbero essere previsti dei nuovi cali, quindi è abbastanza normale che i CCT siano trascurati. Ne consegue che in fase in cui sono trascurati le quotazioni scendono in maniera importante, perché non ci sono compratori, sono compratori marginali. Questo è chiarissimo. Ecco, la questione della domanda di quanti ne sono stati collocati oggi i titoli di Stato. Si diceva la forchetta era tra 5 e 8 miliardi e mezzo, ne sono stati collocati 7. Questo non è un gran segnale, mi sembra. Ma non è neppure un segnale di disperazione, perché io credo che il Tesoro, quando decide queste situazioni, se guardate le richieste sono nettamente superiori alle offerte, quindi se avesse accolto interamente le richieste probabilmente saremmo arrivati poco distanti dagli 8,5. Il Tesoro evidentemente mi pare che abbia emesso anche un comunicato nel pomeriggio in cui ha dichiarato che la raccolta che è stata effettuata è stata più che sufficiente. Ci sono le offerte supplementari, che però ammontano circa 1 miliardo, quindi non è una cifra molto importante. L'impressione che ho io è che comunque dal punto di vista quantitativo il risultato sia soddisfacente, nel senso che ha raggiunto quelli che erano gli obiettivi del Tesoro. Dal punto di vista qualitativo dei rendimenti, dicevo prima, purtroppo credo che ancora per alcuni mesi il Tesoro italiano sarà costretto a pagare questi rendimenti, perché ha molti titoli in scadenza. Quindi, Drusiani, però mi sembra di capire che anche dal lato di quanti ne sono stati collocati, forse quell'effetto che si era sperato con la maxi iniezione di liquidità della settimana scorsa della Banca Centrale Europea, ossia che le banche si comprassero anche un po' di titoli di Stato dei propri paesi, non si sia avuto sostanzialmente. A parere mio, l'effetto del quantitative easing, perché questo indirettamente è come se fosse un piccolo quantitative easing, in Europa non ha avuto gli stessi effetti che ha avuto negli Stati Uniti quando ci fu il primo. Il primo quantitative easing americano fu utilizzato assolutamente per fare trading, per comprare titoli sia azionari sia obbligazionari, perché c'era la prospettiva di un rialzo delle quotazioni abbastanza importante, perché a quel tempo non c'era il problema del debito pubblico come c'è oggi. In questa fase, viceversa, i paesi europei, quelli l'Italia in particolare, quindi le banche dell'Italia in particolare, hanno evidentemente il timore che le prospettive dei prezzi possano non solo non salire, ma addirittura rimanere su questi livelli, se non diminuire ancora un po'. Quindi hanno già non risultati brillanti in pancia a livello di utili, quindi rischiare ulteriormente forse non è il momento più adatto. Grazie ad Angelo Drusiani, responsabile gestione di Banca Albertini SITS. Chiudiamo sempre con il dato sui rendimenti dei titoli decennali e sullo spread. Il rendimento è al 7,02%, lo spread tra titoli di Stato italiani e tedeschi a 10 anni è a 518 punti. Grazie a Fabio Cantadori in regia, Barbara Bianchi in redazione, grazie a tutti voi per l'ascolto, a domani. Radio 24. Il Natale si sente.